Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un altro appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena ora è quella di un cantautore italiano da poco solista, ma da sempre on the road. È nato a Correggio nel 1970. Ha suonato 10 anni con Little Tabor and His Crazy Alligators fino a quando nel 2001 fonda i Rio, gruppo con cui ha pubblicato 5 album e fatto molti tour. Decide di diventare solista e cantautore nel 2013 e da allora ha già fatto oltre 200 concerti. Il suo album d'esordio, Mare Dentro, è arrivato subito al 16° posto in classifica FIMI e i videoclip dei suoi singoli hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Oltre all'attività di musicista e cantautore, è dal 1991 fondatore, responsabile e coordinatore di Liga Channel e Bar Mario, rispettivamente sito e fan club ufficiali di Luciano Ligabue, di cui è collaboratore e fratello. Lui è Marco Ligabue e così ci ha presentato il suo nuovo album Luci, le uniche cose importanti. Ma guarda, Luci mi è venuto proprio un giorno, perché quando ho deciso di mettere queste 9 canzoni nel disco, avevo scritto tante canzoni ma ho pensato che queste 9 erano quelle più rappresentative, e stavo analizzando testo per testo che argomento trattavano in queste canzoni, proprio per trovare il filo conduttore di tutto, e vedevo che ogni canzone trattava un tema per me importante. Si parlava d'amore, si parlava di radici, si parlava di legalità, si parlava del fatto di credere nel proprio destino, insomma cose importantissime per me in questo periodo. Ho detto, cavolo, queste sono le cose importanti, e mentre parlava le cose importanti mi è venuta questa idea qua, Luci, le uniche cose importanti. Dopotutto non è mai tardi, ma è vero che non è mai tardi? Certo, non è mai tardi, se no non avremo più speranza, se no non c'è alternativa, cavolo. Non è mai tardi perché, voglio dire, mio padre, no? Mio padre quando era piccolo non aveva un soldo, aveva forse dei debiti, girava in bicicletta 12 ore per lavorare, portava in giro delle cerniere, dei bottoni per barattare con delle uova, fischiettava 12 ore al giorno, non aveva computer, telefonini, non aveva le ferie, non aveva niente, era la persona più felice del mondo. Noi oggi che abbiamo 1 milione di cose in più rispetto a mio padre, sembriamo tutti infelici. Ecco, io non voglio adattarmi a questa cosa qua, non è per dire sempre che una volta si stava meglio, è per dire che probabilmente ci siamo fatti ingabbiare da un magnetismo di cose materiali o di cose di comunicazione, ma le cose vere che ci fanno star bene probabilmente sono delle altre. Io cerco sempre di dire che non è mai tardi per andare a recuperare quelle cose importanti lì. Bellissima. Un'altra definizione che a me piace molto che tu hai dato è: proseguo nel mio racconto di bicchiere a mezzo pieno. Sì, perché almeno nella musica raccontiamoci ancora un mondo di speranza fatto di sogni, di bicchiere a mezzo pieno. Io sono poi così nella vita, forse da buon emiliano cerco di vedere sempre le cose positive, no? Ovviamente non ho gli occhi bendati, so anch'io in che momento siamo, però non mi piace l'idea di unirmi al coro di lamento o al festival del lamento che c'è fuori, che c'è in giro. Mi piace raccontare che è ancora possibile sognare, che si può ancora sperare, che c'è un'Italia bella, che peccato che non venga raccontata, no? Perché ovviamente fa sempre più audience l'Italia del crimine, delle notizie negative, del malaffare, degli scandali, delle provocazioni, però c'è un'Italia bellissima, secondo me, ancora di gente onesta, gente per bene, che non viene raccontata. Nelle mie canzoni mi piace raccontare di questo. A chi non cerca gli specchi e prima di tutto ti guarda negli occhi, a chi ti dice buongiorno eppure sa bene che cosa c'è intorno, a chi quel pezzo di storia lo tiene ben stretto nella memoria, a chi continua a pensare che non è mai tardi per sognare. Se la nave affonda, c'è qualcosa che non va. Se la nave affonda, solo il mare la prenderà. Ognuno ha in testa un'Italia, ma ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che fa. Però non è una visione idilliaca, perché tu lo guardi il paese e in molte delle tracce del tuo album, come Il silenzio e dolo, anche qui un gioco di parole significativo, tu parli della situazione che ci circonda. Sì, il Silenzio Dollo è un brano a cui tengo molto perché penso lo scorso anno ero a Palermo a fare l'ultimo concerto del mio tour, viene un ragazzo di 21 anni a raccontarmi la sua storia. Lui è di Villabate, un piccolo comune vicino a Palermo ad altissimo tasso mafioso. Lui faceva inchieste e ha denunciato dei brogli elettorali, no? Nel suo comune aveva anche evidenziato delle prove schiaccianti. Per 5 mesi questo ragazzo non se l'è filato nessuno, no? Anzi, era lo sbirro, lo spione di paese, no? Quello da evitare quasi nel paese. Per fortuna le Iene decidono di dedicargli un servizio. Grazie a quel servizio tutta la giunta comunale si dimette la sera stessa che va in onda quel servizio. Quindi siamo quel paese che se tu denunci non succede niente, se vai in televisione e capita qualcosa. Siccome io ho apprezzato il coraggio di un ragazzo di 21 anni, no, che si è messo in gioco, mettiamo che non fosse andato in onda quel servizio, magari lui sarebbe stato segnato a vita in quel paese perché aveva denunciato. Per me lui ha fatto questo atto di coraggio, un atto da brava persona, sarebbe un atto normale, no, in un paese normale. Per me andava sottolineato e quindi ho scritto questa canzone. Per l'appunto Il Silenzio è Dolo, perché in questo caso Il Silenzio è Dolo, che è una canzone che parla sia di denuncia ma anche di voglia di riscatto, come ha avuto questo ragazzo qua di 21 anni che si chiama Ismaele. L'impegno passa anche attraverso il collaborare con delle associazioni, tu le citi nel disco, hai proprio lasciato uno spazio alle associazioni che sostieni? Guarda, quello è forse la cosa più emozionante per me del disco, perché mi sono accorto proprio pochi mesi fa, quando stavo chiudendo il disco, che io in questi 2 anni, grazie alle mie canzoni, grazie alla mia musica, grazie al fatto di fare tanti concerti, di aver conosciuto tante realtà diverse, ho fatto 13 progetti di beneficenza, di solidarietà, insomma comunque sociali, e iniziati, portati avanti e finiti. E per me è stato un motivo d'orgoglio, insomma, importante, ma soprattutto un motivo umano per crescere, perché con ogni associazione, con ogni progetto ci ho messo qualcosa di mio, grazie a una mia canzone, una mia frase, o il fatto che ho dato visibilità attraverso i miei social network a qualcuna di queste associazioni, sono capitate delle cose. 2 al volo, grazie a un video che ho fatto che per ogni visualizzazione veniva raccolto 1 centesimo, abbiamo raccolto più di 5.000 euro. È un villaggio di bambini del Benin in Africa, sono stati spostati dall'essere minatori ad andare a scuola, andare nel villaggio a essere bambini. Stiamo parlando di bambini ai 3 agli 8 anni e, attraverso Il Silenzio e Dolo, che per 5 giorni sono andato a cantarla nelle scuole, nelle sale consiliari, nelle piazze, insieme a un testimone di giustizia. Questo testimone di giustizia che non veniva ascoltato da nessuno, anche se lui aveva denunciato, grazie al casino che abbiamo fatto, grazie anche al suo lavoro, insomma, fatto oltre a questi 5 giorni, è stato ascoltato al prefetto e ha ottenuto la scorta, quindi può vivere almeno un po' più serenamente. Noi che cercavamo soltanto una vita più o meno normale, cresci da bambino in cortile, poi ti ritrovi in questo telegiornale. E se provi ad alzare la voce, e se provi a fare un po' di rumore, sai che ti ritorna il mittente, veleno che fa male, veleno che non può fermare. Via, via da questo silenzio, da questo tempo rubato, ne ho bisogno urgentemente. Via, via da questo tormento, via che non c'è più tempo. Il silenzio è dolo, lai lai lai lai la. Il silenzio è dolo, lai lai lai lai la. Lai lai lai lai la. Però adesso abbiamo trattato tutti i temi tosti, diciamolo, però ci sono anche le canzoni d'amore nell'album, dai. Certo, l'amore, ragazzi, fa parte della nostra vita tutti i giorni, ma io sono contentissimo di parlare d'amore, perché è una delle cose che mi fa star meglio in assoluto. E poi io sono innamorato da tanti anni, ho una figlia, quindi insomma ho conosciuto varie sfaccettature, no? Essendo anche genitore dell'amore. E in questo disco c'è poi anche un brano che per la prima volta forse parlo di un addio, no? Cioè, difficilmente ne ho parlato nelle mie canzoni, però sono stato colpito dal racconto di un mio amico che praticamente lui aveva fatto una cavolata con la sua compagna, l'ha capito solo dopo, è stato lasciato e ovviamente dopo ha cercato di fare qualsiasi cosa per recuperarla, e quindi canto di questa sua storia perché mi ha toccato veramente, perché lui è venuto col cuore in mano a raccontarmela. Che dire, ho voluto fare una canzone su un addio perché possa suonare anche da campanello d'allarme, perché a volte quando abbiamo di fianco una persona che ci fa star bene, che ci vuole bene, non sempre sappiamo dargli valore, no? Spesso certe cose le dai per scontate, no? Nella vita le capisci che sono veramente importanti solo magari quando le perdi, no? Ecco, non aspettiamo di perderle queste cose importanti. Per chi ha qualcosa dentro e sa che arriverà il momento, per chi sorride al mondo che si è acceso e si è spento, ci siamo passati tutti da giorni con le ossa rotte, ci siamo passati tutti da storie solo immaginate, per chi non si dà pace e passa le nottate a collezionare sogni, a cercare la sua estate, tu lo sai qual è il tuo meglio? L'estate è fatta per sognare e suonare. La tua estate? Beh, sicuramente suonare tantissimo. Guarda, io l'anno scorso, per fortuna, insomma, mi sono capitate tantissime tappe, ho fatto 70 appuntamenti tra maggio e ottobre, proprio un qualcosa di incredibile. Quest'anno forse ne faremo ancora di più, insomma, il calendario si sta arricchendo giorno dopo giorno. E a me piace tantissimo suonare d'estate perché si va a suonare molto nelle piazze, nelle località estive, no? E nei posti dove la gente ha già il sorriso di suono, dove si incontrano varie generazioni, dove vai anche nei posti belli dell'Italia, nei posti di mare, non nei posti turistici. Per me l'estate è proprio un sinonimo di divertimento, di star bene insieme agli altri, quindi sognare, suonare e stare bene godendoci il nostro paese. Io te devo chiedere per forza, ma non ti è mai capitato nella vita di dire scelgo un nome d'arte? E ovviamente mi sto riferendo all'omonimia col noto pittore. No, guarda, ovviamente ci ho fatto un lungo pensiero prima di partire con questa mia nuova avventura. Io prima ero, la mia esperienza principale è stata con i Rio, no? Dove ero chitarrista e autore, insomma, e quindi il nome era Rio. Quando ho deciso di lanciarmi da cantautore ho detto, ma esco come Marco Ligabue o mi prendo un nome d'arte, no? Poi ci ho pensato qualche giorno, insomma, perché so che questo cognome, in qualche modo, con questo cognome c'è da farci conti, no? Un po' con la faccia, perché adesso alla radio non si vede, però un filo di somiglianza. Sono più giovincello, ma ci assomigliamo. Stoccata. No, scherzo. Che dire, ci ho pensato qualche giorno. Dopo ho detto, ma io scusa, 40 anni mi metto un nome d'arte come se dovessi scappare da qualcosa, nascondermi dal mio cognome di cui io vado orgoglioso, Marco Ligabue, punto. Ed è tutto per questa puntata di Voci in Scena con Marco Ligabue. Ci troviamo al prossimo appuntamento domani alla stessa ora.